primi passi di un percorso tutt'altro che semplice. Il prossimo Consiglio dei Ministri si occuperà anche di nucleare. Secondo indiscrezioni, i provvedimenti sul tavolo saranno generali ma di sostanza. Dovrebbero riguardare due deleghe al governo. La prima per riordinare il sistema dei controlli, la seconda per individuare il sito in cui concentrare le scorie nucleari. Il titolare dello sviluppo economico Scajola non vuole tornare indietro. Bisogna raggiungere, dice, il giusto mix energetico tra combustibili fossili come il petrolio, atomo e fonti rinnovabili. Le quattro centrali previste saranno costruite a partire dal 2013. Il dove sarà deciso da un gruppo di esperti indipendenti e chi li ospiterà avrà sgravi sulle bollette. Parola di Ministro. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore.